te scivola e tutte le stelle brillano, i miei occhi guardano il tuo viso nell'oscurità, sensazioni magiche, il tuo cuore ormai si illumina, il tempo mai non passerà. I'm not.